Allora, la lezione è in posizione supina e il titolo è Ammorbidire il torace, all'inglese softening the chest. Cominciate ad osservare gli appoggi di tutte le parti del corpo, partendo dai piedi e salendo fino alla testa. Osservate in che direzione sono le dita di un piede e dell'altro. Vi ricordate che non siamo simmetrici e che c'è una gamba portante e una che è più libera, quindi quando si è sdraiati un piede sarà più dritto e l'altro andrà più fuori. E poi osservate come appoggiano i talloni i polpacci, quanto distano le ginocchia, le cosce da terra, appoggia il bacino a destra, a sinistra. E poi tutta la colonna vertebrale partendo dal coccige e arrivando fino alla testa. Osservate come preme e come tocca il coccige sul pavimento e poi rispetto al solito quanto distano l'osso sacro, l'arco lombare, parte del torace, delle vertebre toraciche. Ci sono persone che toccano solo col coccige e la zona tra le scapole e tutto il resto è un meraviglioso arco. E poi in ogni singola persona, a seconda del momento e della giornata, più tensione, meno tensione, stress, l'arco più sollevato o meno sollevato. Quindi osservate come siete oggi, quali vertebre toraciche toccano, quali costole, e poi come è messo il collo, la testa. Come tenete la bocca, se siete con i denti stretti o se la bocca è morbida, se volete provate a stringere i denti vi accorgerete che vi rigidite tutto il collo e fino a metà schiena. E poi osservate come appoggiano le scapole, quella destra, quella sinistra. E infine, come sono messe le spalle e le braccia, i gomiti, i polsi, le mani, e osservate la differenza tra un braccio e l'altro, a seconda di com'è una spalla, di quale spalla è più avanti, verso il soffitto, di conseguenza appoggia in modo diverso il braccio e la mano. Ok, adesso piegate le gambe e tenete i piedi e le ginocchia alla larghezza del bacino. E cominciate molto lentamente a muovere il ginocchio destro in fuori verso il pavimento, senza avere come obiettivo il toccare l'andare a terra, ma avere in mente la direzione. Quindi piano piano muovete il ginocchio destro verso il fuori a destra, verso il pavimento, quindi ovviamente arrivate ad appoggiare sul bordo esterno del piede destro e poi tornate molto lentamente, ascoltando fate il movimento, se state respirando, come tenete la bocca, e osservando fin dove arriva, quali parti del corpo vengono coinvolte nel movimento. Ricordatevi che nel Fenriges il movimento di una parte è il pretesto per arrivare a muovere, a far aggiustare tutto il corpo. Il movimento di una parte influisce su tutto il resto, quindi il resto del corpo si aggiusta sul movimento di questa parte. Quindi vi accorgerete man mano che fate il movimento, se evitate di tenere il corpo ma lo lasciate libero, morbido, e lasciate fluire dal ginocchio che vai fuori, vi accorgerete che il bacino si muove e che quindi l'anca sinistra si solleva da terra. Allora, man mano che il ginocchio destro va in fuori verso il pavimento, sentirete che l'anca sinistra si solleva, quindi il bacino viene un po' ruotato verso destra. E man mano, ogni volta che lo fate, osservate di conseguenza cos'altro si muove. Ovviamente, se si muove il bacino si inserisce la colonna vertebrale. Quindi osservate fin dove il movimento di questo ginocchio passa. Se fino alla cintura, in alto tra le scapole, se succede qualcosa nella scapola sinistra, nel collo, nella testa, ciascuno di voi osservi fin dove arriva questo movimento, che sarà diverso in ciascuno di noi a seconda della conformazione, delle abitudini, dei traumi. E continuate pian piano. Ok, mi fermate un attimo, allungate le gambe. E una volta che ci fermiamo, oltre a riposarvi, osservate se percepite qualche minima, anche di millimetri, differenza. E poi ripiegate le gambe, sempre tenendo piedi e ginocchia larghi come il bacino e talloni indietro sotto la perpendicolare che scende dalle ginocchia. E questa volta cominciate col muovere il ginocchio destro in dentro verso sinistra e verso il piede sinistro. Quindi con una specie di movimento in diagonale, tenendo il ginocchio sinistro fermo, quindi evitate di muovere il ginocchio sinistro a sinistra, ma immaginate che io metta le mie due mani sul ginocchio destro e ve lo tiri verso sinistra e in obliquo diagonale verso il piede sinistro. Quindi cosa succede? Sentirete che si solleva l'anca destra, la parte destra del bacino, e viene allungata la parte destra della schiena. E continuate con questo movimento, osservando anche da questa parte come passa, fin dove arriva, fin dove lo sentite. Nella cintura, nelle scapole, nelle vertebre toraciche, nel collo, nella testa. Osservate fino ad arrivare. E osservate se state respirando o se siete troppo concentrate. Come tenete la bocca, chiedo se ci sono delle parti che partecipano e si irrigidiscono nel fare il movimento anche se potreste lasciarle stare. Molto spesso per abitudine si contraggono parti che invece potrebbero stare mobili. Massima efficienza e minimo sforzo. Ricordatevelo. Ok, vi fermate, allungate le gambe. Osservate se vi state appoggiate, se c'è un cambiamento nell'appoggio del lato destro e nell'appoggio del lato sinistro. E ora ripiegate le gambe, sempre piedi e ginocchia alla larghezza del bacino, talloni indietro verso il bacino sotto la perpendicolare che scende dalle ginocchia. Se volete, potete provare a allontanare i talloni un po' da voi in modo che non siano più sotto le ginocchia e sentirete cosa succede nella schiena. Probabilmente vi accorgerete, se allontanate da voi le ginocchia, vi accorgerete che la posizione della schiena cambia e quindi la parte lombare si inarca di più e c'è più sforzo. Molte persone pensano che basta piegare le gambe per riposare la schiena, ma se i talloni non sono sotto le ginocchia, la schiena rimane un po' inarcata. Ok, rimettete, chi ha fatto la prova, i talloni sotto la perpendicolare che scende dalle ginocchia e cominciamo a muovere il ginocchio sinistro in fuori verso sinistra. Quindi sentirete che vi viene da portare il peso sul bordo esterno del piede e osservate la differenza tra questa gamba, questa anca e l'altra. Non essendo simmetrici, può essere che vi sentiate diverse. Come se fossero due persone diverse. E continuate piano piano a muovere il ginocchio sinistro in fuori verso il pavimento e ritornate. E pian piano lasciate che il movimento passi in tutto il corpo, quindi lasciatevi scongelare, continuate respirare e osservate se pian piano si solleva anche da questa parte l'anca destra e quindi il ginocchio dallo stimolo fa muovere il bacino verso sinistra e poi osservate fin dove arriva il movimento, fin dove vi scongelate. Se arriva fino alla cintura, nella zona tra le scapole, se sentite qualcosa nella scapola destra, nel collo, nella testa e contemporaneamente osservate se continuate a respirare. Non a destra, ma a sinistra. Ah. Sì, se avete bisogno di fare prove, di fermarvi, qualsiasi cosa avete bisogno, fatelo. Io vi dico solo perché dall'esterno non capisco se fate prove o se avete capito l'indicazione in modo diverso. La testa può Tutto quello che volete. muoversi. Ricordatevi che il movimento di una parte è il pretesto per arrivare a coinvolgere tutto. E osservate se continuate a respirare. E man mano che fate il movimento potete sbizzarrirvi a portare l'attenzione dalla parte al tutto, dalla figura allo sfondo. Quindi ogni tanto osservare come si muove il ginocchio, poi come passa e come si muove tutto il corpo, poi magari come si muove la scapola. Evitate di fare il lavoro in automatico in modo da permettere alle vie volontarie di imparare modi diversi di muoversi. E più il movimento è lento, meglio è, perché così avete la possibilità di modificare e fare prove in modo diverso. Se lavorate in automatico non è altro che una ripetizione che diventa potenziamento muscolare, caratteristica della ginnastica, ma non è quello che facciamo qua. E continuate piano piano piano. Ok, se avete bisogno allungate le gambe, vi fermate, osservate come state appoggiate a terra. Ok, piegate le gambe e questa volta cominciate a muovere sempre piedi larghi come bacino, talloni indietro verso il bacino. Cominciate a muovere il ginocchio sinistro verso dentro, quindi verso destra, tenendo fermo il ginocchio destro. Quindi portate un po' il peso sul bordo interno del piede sinistro e immaginate che io con le due mani vi prenda il ginocchio sinistro e ve lo tiri verso destra e verso il basso. Quindi verso destra il piede destro. Quindi tirandovi il ginocchio sinistro vi tiro la coscia, quindi il bacino, e faccio allungare, e quindi si solleva anche la parte sinistra della schiena. Piccoli movimenti. Movimenti piccoli, ascoltando quello che fate. Ricordatevi che se potete fare da 0 a 100 come ampiezza, conviene sempre fermarsi a 60. Mai arrivare al limite, perché se percepite il limite poi vi bloccate, memorizzate il limite e non riuscite ad andare oltre. Osservate se continuate a respirare, come tenete la bocca. Come e se il movimento passa nel resto del corpo, se arriva fino alla testa, se coinvolge anche la scapola sinistra. Vi fermate e allungate le gambe. E dopo che avete osservato come appoggiate adesso per terra, ripiegate entrambe le gambe, piedi e ginocchia all'altezza del bacino e cominciate a muovere entrambe le gambe a destra e a sinistra, tutte e due a destra e poi tutte e due a sinistra. Quando le muovete a destra, lasciate che il ginocchio sinistro si muova a destra e verso il piede destro. Quando le muovete a sinistra, lasciate che il ginocchio destro si muova a sinistra e verso il piede sinistro. Quindi le due ginocchia non si muovono insieme a blocco di qua e di là, ma tenete in mente, con immaginazione, la figura di prima, della sottoscritta che mi prende per il ginocchio, quella lunga. Osservate fin dove passa il movimento, molto lentamente. Se oltre il bacino si muovono le vertebre, le scapole, le spalle, il collo, se la testa si muove o sta ferma, e se si muove, da che parte va? Osservate se continuate a respirare. Scoppiato il bacino. Può essere perché si fa. E riposate un po', come volete. Adesso che ha le gambe allungate, le piega e con le gambe piegate, larghe come il bacino, talloni indietro, verso sotto la perpendicolare che scende dalle ginocchia, allungate le due braccia avanti verso il soffitto e mettete palmo contro palmo. Quindi avete le braccia messe come a triangolo, come per formare un triangolo. E adesso, molto lentamente, tenendo le braccia così, allungate le braccia e le mani verso il soffitto e poi tornate. E man mano che lo fate, osservate cosa succede e come lo fate. Muovete solo le mani e le braccia o lasciate che si muova qualcos'altro? Vi accorgerete che, per esempio, si preme la cintura sul pavimento. Quindi provate a farlo premendo la cintura sul pavimento. E vedo da qua che qualcuno di voi già lo fa, quindi anticipiamolo. Mentre allungate le braccia, premete la cintura sul pavimento, lasciate che il mento si allontani come conseguenza un po' dalla gola. È quasi una posizione di completo abbandono. Quindi vedete se riuscite a farlo con l'idea di abbandonarvi al movimento che fluisce lungo tutto il corpo, evitando di rigidirvi. E riposate un po'. Ripiegate le gambe, piedi, ginocchia larghi come il bacino, braccia a triangolo, quindi verso il soffitto, con palmo contro palmo, mani giunte. E lentamente ora cominciate a muovere le mani e le braccia verso destra e ritorno. Il bacino sta fermo e non occorre fare un movimento tanto grande, anzi diventa impossibile perché vi chiedo questo, di farlo senza piegare le braccia e evitando di far scivolare una mano sull'altra. Quindi Quindi quando andate verso destra, non piegate il braccio destro e non fate scivolare la mano sinistra sulla destra. Vi accorgerete che facendolo in questo modo, il movimento a come eterno si origina nella zona di colonna vertebrale tra le scapole. E quindi non sarà un movimento molto ampio. Continuate a farlo ed osservate se muovete la testa. Potete lasciare che la testa partecipi al movimento, quindi quando andate verso destra, testa, braccia e occhi girano a destra. Il bacino sta fermo, osservate se respirate e se tenete la bocca morbida. Ok, riposate le braccia, rimanete con le gambe piegate. Ora di nuovo sollevate le braccia a triangolo, siete con le gambe piegate e questa volta quando le braccia vanno verso destra, la testa lentamente ruota a sinistra. Come per guardare una farfallina sulla spalla sinistra. Molto lentamente. E lasciando fermo il bacino, le mani vanno verso destra, ma anche verso in alto. Sì. Se vanno solo a destra, mi spiega No, il no, no, no, vanno verso l'alto. Riposate un po'. Ed ora vi piegate le gambe, vi allungate, piedi e ginocchia all'altezza del bacino, tallone sotto la perpendicolare che scende dalle ginocchia, braccia a triangolo. Abbiamo fatto sì, e adesso muovete la testa e le braccia a destra e tenete gli occhi fissi al soffitto. O, se può semplificare il modo di pensarlo, muovete la testa e le braccia a destra e gli occhi a sinistra. Molto lentamente, cercando di respirare. provate a muovere tutto quanto a destra, occhi, testa, braccia, e osservate se il movimento riesce ancora più facile. Forse le ginocchia sono ferme. Sono. E osservate se state respirando. Il bacino anche è fermo. E riposate un po' le braccia, se avete bisogno allungate anche le gambe. Osservate l'appoggio a terra del bacino, della schiena, del torace, e poi ripiegate le gambe, rimettete le braccia a triangolo, piedi e ginocchia larghi con il bacino, talloni sotto la perpendicolare che scende dalle ginocchia, mani giunte, braccia a triangolo, ed ora muovete gli occhi e le braccia a destra e la testa a sinistra. Detto in altro modo, gli occhi seguono le mani e la testa ruota a sinistra. I movimenti degli occhi non sono da sottovalutare perché differenziano i movimenti dei muscoli del collo e lo liberano. Osservate se state respirando ok? E adesso muovete tutto quanto occhi, testa e braccia a destra. Il bacino sta fermo e osservate come passa il movimento fin dove vi siete scongelate, come tenete la bocca. E vi fermate, allungate le gambe, allungate le braccia, vi riposate, osservando, riposare non solo dormire, ma osservando come appoggio un lato e l'altro a terra. Se continuate a respirare normalmente, ogni tanto siete in apnea, a volte concentrandosi si trattiene il respiro. Invece si può entrare a respirare anche quando ci si concentra. Un po' più difficile, ma si può. Adesso ripiegate ancora una volta le due gambe, piedi e ginocchia larghi come bacino, piedi sotto le ginocchia, braccia a triangolo. Ed ora cominciamo il lavoro a sinistra, quindi muovete le mani e le braccia a sinistra. E ritorno. Ricordate di tenere le braccia allungate, tese, il che non vuol dire rigide, ma allungate, quindi non piegate il braccio sinistro e evitate, se potete, di fare scivolare le mani l'una sopra l'altra. Il movimento non è nelle spalle, nelle braccia, ma attorno la parte di colonna vertebrale tra le scapole. E osservate come viene da questa parte, se state muovendo la testa. E se non la muovete, lasciatela libera di muoversi e di ruotare verso sinistra. Osservate se state respirando e fate particolare attenzione anche allo sterno, alle costole, alle clavicole. Immaginate che siano di gomma, quindi lasciate la cassa toracica, il torace libero e il più flessibile possibile. Riposate un attimo. Le braccia, tenete le gambe piegate. Scusate, mi sono scordata di farvi fare una cosa dall'altra parte. Rimanete prima di andare avanti a sinistra, varie volte muovete le ginocchia verso sinistra e tornate al centro. Solo a sinistra. E osservate come passa il movimento adesso. Come passa nel cuore vertebrale fino alla testa. A sinistra, quindi allungate le braccia verso il soffitto e questa volta andate con le braccia verso sinistra, ma la testa a destra, come per guardare la famosa farfallina blu sulla spalla destra, molto lentamente. Evitando di piegare le braccia e di fare il movimento a scatto. Osservate come avete appoggiato i piedi. Siete appoggiate con tutta la pianta o di più su un lato o sull'altro. E osservate, come dicevo prima, come si muove il torace. Immaginate che le vertebre siano di gomma e le costole pure. Che tutto si muova. E riposate. Ripiegate le gambe, riallungate le braccia al soffitto ed ora braccia e testa vanno a sinistra e gli occhi fissano il soffitto. O se risulta meglio pensare in modo diverso, si girano verso destra. Piedi e ginocchia larghi come il bacino. Tallone indietro sotto la perpendicolare che scende dalle ginocchia. Testa e braccia a sinistra e occhi fissi al soffitto a destra. E osservate come tenete la bocca, come respirate. molto lentamente, state un po' correndo. Ricordatevi che quando voi sembra di andare piano, è il momento per dimezzare la velocità. E provate a muovere tutto insieme a sinistra. Testa, occhi e braccia a sinistra. Osservate com'è il movimento adesso. Osservate come distribuite il peso sui piedi, se portate il peso sul bordo esterno, bordo interno. Tutta la pianta del piede appoggiata. E riposate un po', allungate gambe e braccia. Ripiegate le gambe. Allungate le braccia al soffitto e ora muovete le braccia e gli occhi a sinistra e la testa a destra. Detto in modo diverso, gli occhi seguono le mani che vanno a sinistra e la testa si muove a destra. Osservate se tenete soprattutto il braccio sinistro allungato o se imbrogliate e lo piegate o se fate scivolare una mano sull'altra. Molto lentamente, respirando, osservando come passa il movimento. Correndo. Ok, ora lasciate che si muova tutto verso sinistra. Braccia, mani, occhi, testa, ruotano a sinistra e tornano al centro. E osservate come passa tutto il movimento ora. Se state respirando, se il torace è di gomma, si è scongelato, può essere un meraviglioso corsetto. E vi fermate, allungate le gambe, allungate le braccia. Ripiegate le gambe ed ora muovete lentamente le ginocchia verso destra e ritorno. Le braccia stanno lungo i fianchi, appoggiate a terra. E osservate come passa adesso il movimento lungo tutto il corpo. Ok, Ora rimanete con le gambe piegate, allungate le braccia al soffitto e muovete braccia e testa a destra e gambe e ginocchia a sinistra. Senza forzare, perché ovviamente girando una parte da una parte e l'altra dall'altra potete andare di meno rispetto a prima. Quindi movimento lento, senza voler strafare, ascoltando in che punto le due torsioni si incontrano, respirando. Ed ora ci divertiamo a differenziare, quindi le ginocchia e la testa vanno a sinistra e le braccia a destra. Molto lentamente, senza tirare, evitando di piegare le braccia, non imbrogliate. E la testa? La testa va a sinistra insieme alle gambe, alle ginocchia e le braccia vanno a destra. Molto lentamente aggiungiamo un altro dettaglio. Le ginocchia vanno a sinistra, le braccia vanno a destra, la testa va a sinistra e gli occhi vanno a destra. Quindi unite tutte e quattro le direzioni. Detto in altro modo, braccia e occhi vanno a destra e contemporaneamente testa e ginocchia a sinistra. Testa e ginocchia a sinistra, braccia, mani e occhi a destra. Molto lentamente. E osservate se state respirando. Vi fermate e allungate, poggiate tutto a terra. Ed ora ripiegate le gambe, allungate le braccia al soffitto e cominciate a muovere braccia e testa a sinistra e ginocchio a destra. Osservando se state respirando e se state tenendo la bocca morbida. differenziare, quindi la testa si muove a destra insieme alle ginocchia e le braccia vanno a sinistra. Piano, piano, piano. Testa a destra, insieme alle ginocchia e braccia a sinistra. Ok. Piano, piano, piano, lentamente, evitando di piegare il braccio sinistro e di far scivolare le mani. Osservate se respirate e come si muovono le costole, se le sentite come di gomma o se vi pare di avere un'armatura che a blocco unico si muove. E aggiungiamo il tocco finale, quindi ginocchia vanno a destra, braccia a sinistra, testa a destra, occhi a sinistra. Detto in modo diverso, testa e ginocchia vanno a destra, occhi e braccia vanno a sinistra. Gli occhi seguono le mani che vanno verso sinistra. La testa e le ginocchia vanno a destra. Contemporaneamente, occhi e braccia vanno a sinistra. Ed ora tutta la parte superiore va a sinistra e la parte inferiore va a destra. Testa, occhi, braccia a sinistra, ginocchia a destra. E vi fermate, vi allungate le gambe, le braccia, la terra. Dopodiché facciamo il gran finale facendo la controprova dell'inizio. Quindi piegate entrambe le gambe alla larghezza del bacino, con i talloni sotto le ginocchia e di seguito muovete entrambe le gambe a destra e a sinistra, lasciando quando andate verso destra che il ginocchio sinistro si muova verso destra il piede destro e quando andate a sinistra che il ginocchio destro si muova verso sinistra il piede sinistro. Molto lentamente state correndo e osservate come passa adesso il movimento in tutta la schiena fino alla testa. Se lo sentite un po' diverso da prima. E magari aggiungete la ciliegina sulla torta ruotando la testa in direzione opposta delle ginocchia. Ma non tanto perché ve l'ho detto io, ma perché sarà un movimento lento in ascolto, il movimento a spirale conclusivo naturale è quello della testa che mette il suo tocco finale ruotando in direzione opposta. Quindi fate un movimento lento, ascoltandomi e cercando di percepirlo tutto, non di farlo perché dovete farlo, perché ve l'ho detto io. L'interesse non diceva mai come fare i movimenti, ma lasciava che le persone sbattessero la testa. Perfetto, allungate le gambe e cominciamo ad osservare gli appoggi partendo dai piedi e salendo fino alla testa. Quindi osservate come sono messi i piedi, come sono allineate le gambe e i piedi adesso, come appoggiano i talloni, i polpacci, quanto distano la parte posteriore del ginocchio della coscia da terra. Come appoggia il bacino a destra e a sinistra. Come messo il coccige, l'osso sacro, l'arco lombare. Come sono messe le vertebre toraciche, come appoggiano le costole rispetto a prima, come è messo il collo, la bocca, la testa. E poi come sono messe, come appoggiano le scapole, quella destra, quella sinistra, le spalle. Appoggiano le braccia, i gomiti, i polsi, le mani, le dita. Quando siete pronte, lentamente rotolate su un fianco, dal fianco vi sedete, non venite su dritte, terminate tutto il lavoro con lo sforzo di addominali nel collo. E quando avete rotolato sul fianco, siete sedute, piano piano vi alzate e osservate come state in piedi prima di andarvene. Non ci si alza.